Ciao, ciao, ciao ciao, Tucci, ciao, ciao ciao. Rete. Chissà se siete ancora Viaggiori. rimasti. Siamo in compagnia di alla mia destra. Sir Lord Thomas Kirk Wellington. E? Alla sua Il suo destra. fido Caesar, cane di razza Border Collie. Michael Ironside. Ironside, è vero, me lo Professore di antropologia. E pornografo. È pornografo. Ah, Di bello pentito. aspetto, mediamente destro, mediamente potente, una robusta costituzione. Io sono Ray Curie, americano, e origini francesi, Doc, la lampada. dopo aver fatto l'università ad Harvard e aver esagerato con le droghe e avendo ucciso un paziente, sono andato alla medicina generale quante volte. E adesso mi trovo invischiato in questo strano viaggio che ho accettato per via dell'amicizia con Lord Thomas Jefferson, padrino della Costituzione americana. Jasper Jackson, ex poliziotto e alcolista afroamericano. Da quando? Da sempre, Non ce l'ha mica dall'inizio. detto prima. Non so Sì. Se no non lo prendevamo nella È per quello è che sono pericolosissimo. JJ mi sta dicendo che lei beve. No, no. A Detto casa mia. JJ. La mia collezione di brand E in assenza c'è Peter Peter Crowley, Pry, meccanico del Lord Pilton. Che useremo un po' a turno. Se riesci a non Rapido. muoverti, però sta fermo, è completamente fermo. No, non è impossibile. Aspetta, facciamo un breve riassunto. Io so che il dottor Ironside aveva fatto un... anzi, Solo fa arriviamoci. vedere Cosa è successo al volo rapidamente? arriva. La Abbiamo scorsa sparato a volta. tre stronzi che No, ci hanno attaccato nella stanza in cui Quindi avevamo. avete... Abbiamo Ok. ricevuto un telegramma dal nostro caro Sì, però. amico Jackson Elias. Elias. Yes. Dicendo che aveva spedizioni sull'informazione Carlale. Esattamente. Fascicolo di riferimento, cioè c'è un altro E ci ha detto che sarebbe arrivato di lì a poco. Che è Di Erika Carlale. mettere su una squadra. Io ho pensato bene, preso dal fomento Cioè, dei sicuramente safari dice e dei vari qualcosa sul viaggi, fascicolo di Erika diciamo, Carlale. nelle Però guarda, Indie, quello che proprio volevo nei dire è vari che Erika Carlale pure era sua possedimenti, paziente. o comunque mi vanto di averli. Tirato su, insomma, questa spedizione Questa con squadra, ok, questa prenda. Visto che Squadra. non riesce a tirare su C'è... altro nella tua vita. No, certo, molto poco, insomma. Quindi Mi accontento dei piaceri dell'intelletto. le informazioni che avete messo insieme riguardo alla spedizione Carlyle e ai suoi spostamenti, chi c'era, quali sono? Questo mi Troppo sembra che lungo. Che, troppo vabbè, no, più o meno su giù sono da. partiti da una spedizione in Egitto. In che anno? 19-20 più o meno, no, Sì. nel 19 E poi sono passati da Londra. sono passati poi dall'Egitto, sono andati inspiegabilmente in Kenya e lì sono No, sì, scomparsi e Londra ho ritrovati detto. mesi dopo morti Allora, nel tutti quelli della riassunto. spedizione tranne i facenti parte ufficiali, cioè gli americani Nel nostro riassunto direi che non sono merita una stati arruolati. menzione il fatto che il nostro caro amico il medico, il dottor Cure, che dir si voglia, si è riuscito a farsi dare resoconto delle sedute che aveva fatto Roger Carlyle. Roger Carlyle, E però a quanto pare Erika psicanalisi, Carlyle, che era giusto? psicanalisi, sì. Esatto. Sì, da che quadro esce da questo? E esce il quadro che descrive i sogni di Roger Carlyle e della sua sorella Erika, che pare sia essa stessa paziente E si fa menzione di una figura femminile sì, chiamata Anastasia o Nueru o sacerdotessa. sì. E poi questo sogno Vabbè, ci siamo. Ah, vabbè, no, forse queste sono abbastanza importanti. Ah, no, sì, c'era... Diciamo come era il sogno, dice che non gli procurava... C'era questo uomo scuro che sembrava quasi paura, un fantasma, che c'era, no? Gli procurava di fare divertimento. C'era questo uomo scuro che teneva in mano una sfera, un mezzo fantasma, che teneva in mano una sfera e attirava, lo attirava dentro la sfera come se dovesse essere risucchiato. Che bello, questo, tutto documentato. Questo è un tributo. L'ottava Ivan. Comunque, okay. Siamo andati al fatidico appuntamento con Elias al Chelsea Hotel di New York. Non si è presentato allora. Non si è presentato, siamo venuti, c'erano tre individui vestiti in un copricapo molto particolare con una striscia di... sì, rossa, che pendeva come una cravatta un po' cicciotta ripiena, e quel peggio neri, il neri armati in branda, armati in branda, che vi hanno fatto un po' il culo, ma alla fine li avete fatti fuori uccidendoli a sangue freddo. E il più sanguinario di tutti è stato un calmo professore di antropologia, cioè con la sua pistola, con due volte ucciso tre nani, sì, con due tre negri. Questo è l'antirazzismo dei profeti della tolleranza. Ok, assassino. Ora ci troviamo in una stanza d'albergo con quattro cadaveri perché Elias è morto. Ok, vi girate e vedete questo sul letto. Minchia, quanto è brutto. Che cazzo? Questo è il vostro buon amico Jackson. No, Elias. La sua mano. Ah, mano. Mi sembra palesemente poco rianimabile, signori. No, miei. Infatti, faccio un tiro medicina. Vai. Ha uno strano simbolo in testa, sembra una specie di bagarozzo iscritto in una parete. Da poco, anche per un però po'. È morto secchito. Guarda, è morto, però guarda, potete provare a rianimarlo, anche se è morto, ma vaffanculo, è morto e basta. Ok. E invece Nando, appena gli dà la stecca in faccia, può essere via, perché è morto di pugno. Sì, ma gli ha dato la morte di coltello dietro. Vabbè, però dai, pugno, non ha detto che no. È andato in negativo. Il problema sono le prime, è morto. È l'influenza in realtà. Ai fini della animazione, quello che segue. Quindi, che fa? Ok, ora tu un po' di meno. Cosa voi forse anche te, però voi tutti, anzi tu pure, fate un tiro sanità. Ma perché? Per vedere il tiro estivo. 56, bellino. Tu l'hai visto. Ma io ho sparato in faccia una pelle. No, aspetta, veramente, ma andando è morto. Ma tu non volevi, non devi farlo perché hai visto di peggio proprio per quello. Ah, ok, non lo fa. Preso. Lo devi. Lo fa meno, no? Ho capito. Lo devo fare. Sì, da, sì, sì, meno. Preso. Sì, fallo. Tu? Preso. Se lo fallisci o pino? Oddio, tu, ah, tu. No, il sanità no. Cioè, se sì. Lo fallisci o fallisci? Lo fallisci. Io non so se Jacopo lo deve idea... fare. Sì, lo deve fare. La prima idea 60. Devo fare di più. Di meno? 93. No, idea di più. Dopo devi fare sul tiro idea. L'idea solo se fallisci il... Il tiro sanità. Più sei. Ah, quindi di più. Quindi ti è andata bene. Ho fallito il tiro sanità, ma ho... Ho fallito anche l'idea. Sì, però ho fatto, cioè, fallito. Quindi è andata bene. Ok, quindi riuscite più o meno, idem per Cry? Sì. Riuscite più o meno a mantenere il sangue freddo? Ah, signore, visto che bene. Finestra aperta, porta aperta. Si è fatto un po' il casino. Cadaveri ovunque. Voi siete sporchi di sangue. No, perché deve essere... vabbè, ancora no, però no, tu stavi in prima fila, sei tutti più o meno. Io chiamo subito Georgeton e mi faccio portare i vestiti nuovi. Allora, aspetta, non fare il rimbombare, scusa, ah, okay. Non devo essere un tour di cazzo, no, fallo se vuoi. Ok, vabbè. Devo farlo un po'. Ci sono sei schioppi di pistola. Come? Ci sono sei schioppi di pistola, quindi se la breve arriveranno. Infatti non stava molto salto a sparare. Vabbè, ma questi c'hanno, voglio dire, non è che sono disarmati, c'hanno i pranga, voglio dire, c'hanno il grido loro, che cazzo. Allora, ditemi cosa volete fare. E ditemi un po' l'ordine di uno della destra. Allora, dottore, faccio una gran cosa. Vada alla reception. Dottore, vada alla reception a avvertire di chiamare la polizia. Ma la polizia sta già arrivando. Ci pariamo il culo. Ho capito, per quando è. Volevo scrivere l'ordine di destrezza, sì, se lo ricordiamo per sempre quando serve. Io 14. Tu e Ivan. Io li perquisisco i nandi. Anzi, no, scusa, perquisiamo il tizio. Aspetta, prima uno deve andare a chiamare la polizia per pararsi un po' il culo. Io non chiamo nessuno, cioè per me. Delego io. Scusate, idea. 100. Sì, sono fallito. Io penso che anche suicidato. Sì, tu vuoi correre. No, il fatto è che sono stati palesemente uccisi con armi da fuoco. Nessuna delle vostre armi, tranne la tua, è registrata o legale. Cioè, insomma, chiamare la polizia addosso a voi adesso un omicidio e voi avete proprio l'arma in mano. Però se richiamiamo noi e comunque facciamo vedere che. No, è macello, andiamo. Se scusate, siamo semplicemente difesi. Ce l'ho il meglio professore. No, raga, macello, no. Io ho fatto 100, raga. Mi faccio venire l'idea che gli mettiamo le armi in mano e diciamo che si sono suicidati. Se no, pensiamo alle armadio autodifesa comunque, perché hanno ammazzato Elias, che era proprietario della stanza. Noi avevamo appunto, cioè lui Braga. Va bene, no, ma potrebbe anche essere. Sì, ma loro sono neri, potrebbero... stiamo in e poi loro sono neri. Pure potrebbero. Però io sono ex. Sì, ma lui è il mio negro. Lo so, ma la giuria è. Ma sei a New York, bianche, no? Non è mica un andaggio. Lui fa il mio. Stava al sud, stava a nord. Non è tanto. Andiamo sugli agganci ex poliziotteschi. Vabbè, raga, comunque allora, fate, se no, se c'è qualcosa, tutto al volo e scappiamo dalla finestra al quarto piano. Sì, ma c'è una scala antincendio di come tutti i palazzi in America, tra l'altro. Sì. Quelle zigzagate. Famo tutti gli spotti del mondo. Vai. Allora, qualcuno deve. Io sul cadavere. Esatto. Qualcuno... Io su Elias. Che quale cadavere, scusami? Cioè su Elias. C'è stato qui. Ah, su Elias, io ho preso. Ok, ditemi quanti spotti fate e chi ci riesce. Allora, io Elias, Elias ha fatto per forza. Io e Jacopo su Elias. Allora, no, aspetta, Jacopo su Elias, io sul letto. Ok, ci vuole uno che faccia sulla stanza. Sulla stanza un po' generale, sì. Francesca sulla stanza, cioè Peter vale. Cry sulla stanza. La stanza generico. Ah, sì. Che cioè, come è fatta? No, controlla la stanza. Vabbè, no, okay. Non so, faccio un tavolino, ti faccio esempi. Se vede delle carte sulla scrivania, oppure nel cestino ci sono delle carte appallottolate. Il professor Ironside, quelli che potrebbero essere messaggi sotto la porta. Potrei fare una spot interna sui nandi. Sui cadaveri nandi. Francesca l'ha preso. Fallo su quello che stava uscendo dalla finestra. Letto, che stava scappando. Ah, va bene. Sì. Sui nandi della finestra. Quello che stava scappando. Io un altro nando. Gli prendo anche una però hai detto che lo prendo, c'è un parecchio passo. No, questo sono tutti uguali? Sì. No, uno è vestito. Ah, sì. Cioè, fallito miseramente. Scusa, sì, due sono vestiti più o meno in borghese sotto. Cioè una magliettaccia, un po' zozzo e dei jeans. E un altro invece c'ha una sorta di pareo ed è nudo, petto nudo. Sono tre, erano tre? Sì. Mi sono addormentato. Sì, sì. Vabbè, perquisisco il... Che cazzo perché dico? Lo pareo che ci deve. Guardo se è vera questa diceria che si dice che questi. C'è nel cazzo di questi africani abbiano questi. Non ti servono spot hidden. Se vuoi frugare frughi gli altri. Ok. È riuscito a tutti? No, io fallito. Ok. Allora, io a tutti. Ma tu fai un listen. Io sono letto. Stacca per cui dando che sta scappato. Ma prendo pure il copricapo grande, da segnatelo. Quanto è venuto? 2 e premi un po' di campo. Segnatelo, che hai fatto? 2. Ottimo. Cosa? Daffy, tu non solo senti, ma in realtà ti accorgi subito di fuori. C'è una macchina di sotto. Qualcuno ti vede alla finestra dall'interno della macchina. Scambia qualche parola con il conducente. Questo non è il conducente. Chiudono al volo e la macchina parte a palla. Fai è nera, è una Hudson del 15 nera. Mi dai? Quindi è 2 macchine. Va a prendere. Al conducente stesso lo sì, sì, cioè c'è il passeggero e il conducente. Non sarà difficile prendere la targa, il numero sarà 27. Sono pochissimi, sì, infatti è una targa molto simpatica. Però per vederla serve uno spot hit. E lo può fare solo Daffy, purtroppo, perché voi siete intenti. Ah, cerca altro. Siamo in tanti. Preso. Ma dai, però la targa è NYL7. NY New York L7. Questo poi dobbiamo vedere. Yeah. Tu sei gli amici poliziotti, possiamo fare. Ah, NY. Basta chiamare la motorizzazione. L'assicurazione basta chiamare adesso. Nell'N20 non lo so. La motorizzazione. Quindi voi Allora, io sul letto, e okay. Per letto intendo tutto il letto, sì. Sopra, sotto, destra e manca. Ah, tu trovi... Scusa, distruggo o usufruiamo? No, usufruisci, dai. Cerchiamo di non leggere quelle altre cose che ci stanno vicine. Ah, però esiste. Cazzo, che bello. No, non è che devo fare, qua non lo vuoi fare. No, no, no. Non posso neanche neanche, però basta fare. Qua dietro c'è tutto, ma no, è tranquillo. Vabbè, non strappo. Potrei strappare la pagina. Non è inutile. Però non è facile. Spiegalo. Allora, voi due trovate queste cose qua. No, no, no. Questo sopra? Tutto questo? Allora, troviamo questo qua, importazioni Emerson, che non si sa che cazzo è. Una fotografia macchiata e sfogata raffigurante. Bello, allora questo è andato. Cioè, se l'è andato più sfigato di tutte le avventure di Turo. Un grande yacht all'ancora. Una foto sfogata, non c'è la foto, c'è scritto. Raffigurante un grande yacht all'ancora, circondato da giunche cinesi. Si vedono soltanto le prime lettere del nome del battello, OSC. Poi, Fondazione Penhu. Che era quello che è andato pure. Sì. E poi questo qua, una bar scatola di cereali ubriaca. Una foto, due scatola di cereali, due biglietti da visita. Non ti ricordai questi cosi? La foto, sì. Ok, se volete fate vedere la Daffy, non l'ho mai vista. Vasi Stas? Queste sono cose che avete trovato sul letto, in camera? E su Elias. Sì, sul letto e su Elias. Ma dov'è una foto sono sfogata? Scusate, c'è scritto qualcosa sul retro del biglietto da visita delle importazioni Emerson. Ah, è vero. Ah, signori, non se ne è accorto Daffy? Un accento inglese subito. Ha fatto lo spot del vero. Essendo americano. Silas... Ah, questo non è il nome della sacerdotessa. Quale? Silas in quale? Tu non lo sai, non sai niente, non ti ricordi niente. No, io ho una mamma di Samuel. Sì. No. Silas in quale? I cognomi sono palesemente diversi. Credo. Silos. No, oppure Zilos. A me io ce l'ho con Lilos. Lilos dovrebbe sì, essere anche Lilos. Comunque è una... Se tu sai che è la grafia di Jackson. E quindi non riesco a interpretarlo sapendo la sua. Cioè, non, sì, non forse sì. Più. Fai un tiro idea. Ok, l'ultima è per 200. 84. Fallito. C'è il cervello spento. Tu forse trovi no. Questo? Io? Cioè, Cry trova una lettera. Prego, sì. Conosci Cry. Leggiamola se si può. Novembre, 17 novembre 24, siamo al 25, quindi di 2 mesi fa. Gentilissimo signore Elias, Prospero House Publishers, Lexington Avenue, New York City. Egregio signore Elias, il libro da lei richiesto purtroppo non è più parte della nostra raccolta, ma potrà trovare le informazioni che cerca in altri volumi. Mi contatti dopo il suo arrivo, sarò lieta di aiutarla nella ricerca. Cordiali saluti, Miriam Arthright. Arthright? Sì, sì. Tu, vicino alla finestra, vabbè, alla finestra tu sei accorto di quelle cose là, e tu hai cercato i... gli individui neri che sono entrati e su di loro non trovi nulla, nulla proprio, tranne le loro armi, i loro strani copricapi e lasciamo le armi sono tutti uguali, tutti e tre uguali, tutti. Sai che colore sono? Allora, rosso, questo lembo di pelle, cioè di sì, di pelle. Scusa, che prende ed è il resto degli anni 20. Si prendevano le impronte digitali. Dobbiamo scoprirlo, lo sai? Forse sì, forse già sì. Vabbè, io per non sapendo leggere né scrivere, pulisco la porta, la maniglia della porta che ho toccato io. Vabbè, ok, ci sta. Poi vedremo. No, quindi io ho fatto locksmith, quindi è una cosa che ho toccato voi. Mm-hmm. Ok, va benissimo. Avete queste cose? Sedamo, andiamo via. Sedamo a rissa. Sedamo la macchia. Se, allora, siete stati notati di sotto, ovviamente, voi, alla reception. Chi è il più pulito? Che cazzo vuol dire? Che non ha sangue addosso. Chi potrebbe essere? Sporco, però. Krai, sai. Forse. Chi è che ha combattuto di meno? Non lo so, io ho sparato. Io ho dato un calcio, uno l'ho ammaccato. Io ho dato un affondo. Però sei coperto di sangue tuo, tu sanguini copiosamente. Sì. Io ho sparato con la pistola. Sì, forse lui. Dove non può andare questa stanza? Continuiamo. Sì, ci sto scrivendo. Lui sta scrivendo l'arbolato adesso. È figo, eh? E sul voi che guardate il corpo, notate che c'è questo simbolo. Molto utile sulla testa. Ma scusate, no, manca ancora qualcosa che avete trovato. Che lo trova sempre Krai. Questo qua. Questo qua. No, scusa, lo trovi tu addosso un libro. Questo simbolo qua. Ed è questo. Fammi vedere cosa c'è scritto. Ma quello lì che stava scappando l'abbiamo perquisito? Quello che stava scappando dalla finestra? No. Penso che c'è solo appunto questo. Ho fallito io il tiro. Ma poi lui ce l'ha fatta. Sì, lo so, l'ho coperto. Mi ricordavo che era qualcosa del genere, non l'ho letto. Vabbè, comunque non ce l'ha fatto lui. Che sia non lo so, tu l'hai perquisito quello. Non è che ci sia stato molto. Io trovo di questo. L'abbiamo perquisito tutti. Sì, tu trovi questo. È una lettera. Scarlatta. Beh, aperta su una scrivania. Ma questa è più di una lettera. Ma scusa, stava in tasca uno di loro. Chi ha scritto? Gentilissimo signor Carlyle, sono venuto a conoscenza del tuo interesse dal Cairo, 3 gennaio 19. Prima di partire. Firmata Faraz Najir. Allora, sono venuto a conoscenza del tuo interesse per alcuni reperti del mio paese e credo di poterla aiutare. Possiedo alcune singolari curiosità che penso possano interessarle e che desidero sottoporre alla sua attenzione. Ci accorderemo senz'altro sul prezzo. Si tratta di reperti molto antichi e naturalmente mi aspetto una buona offerta. Il mio negozio è sulla strada degli sciacalli. Strada degli sciacalli, nella città vecchia. Potrà farmi contattare dal suo agente e comunicarmi così le sue intenzioni. Fino ad allora il suo umile servitore Faraz Najir. Sì, Faraz Najir, strada degli sciacalli. Dove? Cioè... è inviata dal Cairo. Cairo. Cerca su Google. Google Maps. Eccola, vediamo se esiste. No, non si può piangere. Ok. No, c'avevamo quegli sci. Listen tutti quanti. Questa... Ma è oscena questa cosa dell'iPhone. È fighissimo. No, anni 50. Io questo lo vogliamo aggiungere qua, lo vogliamo attaccare da qualche parte. Madonna. Sento pure quello che tira la catena a 3 ore di distanza. Senti che sta essendo un diverso pure Francesco l'ha preso. Un diverso numero di passi. Diverso numero. Diverso da chi? E quindi ora sta a voi se fuggire o meno. Ammazziamo tutti. E questi ci bloccano, ci fanno andare a centrare cose. Scappiamo, mi pare ovvio. Ma lei può fare. Lui gli agganci seri ce l'ha in Inghilterra. Io faccio signori. Però. E me ne vado. Dalla finestra. No, si chiama lui. È lui il capo, è lui il boss. Non necessariamente, insomma. È lui che paga. Per quel che mi riguarda, è lui il boss. Ok. Allora, vi avvicinate alla fine, io la porta che fa. Detto questo, qualunque cosa di uscita, no, uscita di sicurezza, non c'è uscita dall'emergenza. Ok. Scendete di sotto, non siete un bello spettacolo. Un po' coperti di sangue, un po' no. Tocchiamo macchina subito come levri. Eravamo venuti tutti con la sua? Beh, sì, c'è due posti a mia. Sapevamo che guidava. No, non c'era quella da 4. Ah, quella tipo casetto. Sì. Da 6. Immagino che siete venuti, sì, da 6. Siete venuti in quella. Sì, quanti 4, siamo? 7, 5, per forza. Va bene. Fate però uno sneak. c'è vaghezza. Basta che fallisca. Fallito. 15 preso. 15 grande. Fallito. Anche nessuna probabilità di tirarlo. Preso. Lo sai, ma Daffi non ne l'ha preso Francesca. No, ha fatto 0-0-0. 100. 100 non è preso. Ha sbagliato tutte le scarpe. 0, Francesca 0. L'ha preso. Daffi ciampa, urla, bestemmiando mentre cade. Gli vola la pistola dalla tasca. Insomma, un casino. Francesca però l'ha preso e continua a fare la live. Ok, insomma, vabbè, il fatto è che o vi dividete. Lo stanno lì. Allora, potete dividervi e coloro che gli è venuto lo sneak. Però no, chiaramente dividevoci, così non sanno più dove andare. L'unico che l'ha preso mi sa Peter Fry. No, Fry l'ha preso, lui l'ha preso. Oh, per quanto mi riguarda, se chi ho preso vuole venire con me in macchina, io me ne vado a casa. Io mi fio del macchina. Peter Fry, tu non l'hai preso e vai con loro uguale, cioè li metti in serio pericolo comunque. Sì, ma no, perché prendendo... Però lui sta molto male, eh. Lui c'ha 3 punti vita, sta sanguinando a no, bestia. Quasi no, quasi lui ce ne ha 5 su 10. Amazon. Ah vabbè, mi ha fatto male. Se no, chi è che non l'ha preso? Io. Tutti gli altri, tranne lui. Vabbè, andiamo in 3 direzioni diverse. Andiamo in 3 direzioni diverse. Oddio mio, che colpo. Posso dire una cosa a Cry al volo? Cioè, dai, mettiamo un attimo in pausa. Bassa voce. Fine parte 1.